Ciao Cla. Ciao. C'era Gianni 2 secondi fa, stava proprio alla porta. Non so, non sento nessuno io. Stavo provando questo microfono. Non ho sentito nessuno, stavo cercando Gianfranco. Però no, sicuramente non c'è, non mi ha risposto. Sì, sì, Radio 5, 9 più 20. Ehi, ecco. Sì, no, sto usando il 140, stavo facendo andare. Però mi stavo sistemando il microfono che stavo cambiando la connessione perché era ICOM. Questo è l'altro microfono, capito? 140 watt, 20 watt, 20, 10 watt, 20 modulati, dai. Vabbè. Posizione, siamo uno di fronte all'altro, c'è anche Antonio Valessi, eppure non lo so chi ci sia, io stavo, ho sollevato adesso il volume, stavo cercando Gianfranco, ma non mi ha risposto, evidentemente ancora non è in radio. Avanti Antonio, per caso. Va bene. Ebbè, te l'ho dato girito, come mi ascolti? Con questo apparecchio. 6-9, 3-5, perfetta qua. Non ho toccato lo smitter ancora, perché quando sento adesso a coso, diceva che guarda io smitter questa baracchina qua. Quando sento a Roberto, quadrato, mi faccio la regolazione di ricezione. Dello smitter. Così siamo a posto. Perfetto, perché appena appena più, cioè come si dice, ristretto come si mette, quindi figurati tu. Va bene, la sto facendo bene, non è stato un record, l'hai avuto anche tu, quindi non ho toccato di watt, non ho toccato di niente, sto uscendo con i watt soli e basta. Adesso vi diminuisco, guarda. Avete potenziamento esterno naturalmente, così i dati sono 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovrebbe essere aumentata la radio. Ehi, Antonio lo sta levando 9, 9, 20, 9, 15, 9, 20 modulati. Va bene, già andate bene tutti, importante che ci sentiamo, poi segnale più, segnale meno. Ciao da Ruggerito, buonasera. Vedo se sei svegliato. Ciao, parla. Vabbè, saluto tutti i nuovi entrati, che mi sono sentato 5 minuti, non so chi ci sia. A te ti ho sentito entrare, Chiodo. Cosa ti volevo dire? Niente, sì, mi si è troncata in due l'antenna, proprio troncata, tenuta dal cavo e basta che c'aveva all'interno. Cappa, mi dispiace per Ottavio. Vabbè, fagli migliori auguri da parte mia. Niente di che. Cosa ti volevo dire? Vabbè, ci siamo rimessi a posto. Cappa, vabbè, non ne manca mai, dai. Speriamo si rimetta presto. Avanti, Alicia, sei morto? No, aspetta che sono con la peste. Di qua. C'è Daniele, figlio di Giovanna, sta giocando con Fulturi. Aspetta un attimo. Sono strampa. Ma cala, ma la tua antenna guarda quella che c'è Gianni, perché sì, è bassissima quella antenna. Troppo bassa, era di a poco, no, volevo capire, siccome avete parlato di Sirio, se l'antenna che c'ha Gianni è uguale a quella che c'hai tu, quella che c'ha Gianni, cos'è, è uguale a quella che c'hai tu, Gianni? No, la mia è una REM, è la Super REM la mia, non è Sirio. E non ti ho detto che me l'ha troccata il 20 in due? E non me l'ho rinforzata, non si è rotta da un'altra parte. Cioè, avrei dovuto rinforzare tutte e due le parti quando vabbè, non ci ho pensato che andasse bene, quindi non l'ho rinforzata solo dove era rotta. Ci ho messo 3 fascette d'acciaio e non si è più rotta lì, si è rotta sopra. Sì, la mia, ne devono partire altre 3. Devo consegnarne 2 all'albero e una è la mia, parte lunedì, domani lunedì, sì, domani parte. È arrivata venerdì, sono arrivati venerdì il carico 50, ne ho ordinato. E mi deve spedire la mia, poi altre 2. Quella che avevo qua l'ho consegnata a Carlo, penso che in settimana la piazzi. l'altra la mia, quella che avevo prima, l'ho data a uno di Cagliari, che stavano facendo il pezzo e avevano bisogno subito dell'antenna, quindi gliel'ho mandata. Adesso me la rimanda lunedì, ti spedisce più altre due. Quando ti serve me lo dici, chiamo il tecnico, il venditore, te la faccio mandare, anche perché io qualcosa risparmio, capito? Ma non l'hai presa Gianni quella Super Lamy, la Fusaro? Gliel'ho vista. E vabbè. Antenna, quanto te l'ho fatta pagare? 180 costava. E da lui 180, costa 130 centenni. Da lui 180. Tu immaginati che a Francesco di Ogero, perché non mi ascolta, anche se in ascolto io parlo chiaro sempre. Perché quando ti serve quell'antenna, dimmelo che te la ordino io, e la paghi 160 euro, più 20 euro di trasporto. Capito? A me, se no la paghi 180 più 20 di trasporto, 200. Fino alla Fusaro 250 euro. Vabbè no, a me mi ha fatto lo sconto, ti dico la verità, a me me l'ha fatta pagare di meno, però mi ho fatto i conti quanto costava su internet, più 20 euro di spedizione, a me me l'ha fatta 150, la 180, però il maschio non so se sia il marito di cosa, mamma mia ragazzi, cioè con lui non si può parlare, mi ha detto su internet costa 146 euro e lui mi ha detto allora noi la possiamo fare anche 190, poi è venuta lei, è venuta, mi ha detto vieni già che ti guardo quanto la posso fare. Antonello me l'aveva fatta 155 e lui mi ha tolto anche le 5 euro. E quindi fatti due conti, uno più uno, l'ho detto. In continente quell'antenna costa, in continente, dove vende il venditore che vende le gemmate, c'è anche la LEM, la Super LEM, la Sirio, la gemmate, c'è un sacco di antenne, te la fa pagare 120 euro, costa, è caro Fusaro Gianni, è caro, a me ne servivano 50 metri di H1000 e ne vuole 6 euro al metro, capito? Ho chiamato la Mascar, me la manda la prossima settimana, perché devo montare altre antenne, quindi mi serve cavo buono H1000 e me lo fa 3 euro al metro, è caro, non c'è niente da fare, è troppo caro, troppo, ma io glielo ho già detto, sia Mazia, lui non mi rappresenta niente, il marito di Mazia, ragazzi, che ti conosci. Ho detto sì, aiuti Antonello, fatto un altro, io voglio che ti faccia, non posso farci niente, prezzi di fallire, cioè da un'antenna non ci puoi guadagnare il 100%, abbi pazienza, se un'antenna costa 120 la puoi vendere 140, 150, ma no, 180, non devo esservare bene. Se te lo sto dicendo a Francesco 230 euro, l'ha fatta pagare la stessa antenna che io ho pagato 160 euro. 160 euro a me mi fa 20 euro di sconto, ma io gliele sto vendendo in Sardegna, capito? Sto facendo la cortesia, se no costa 180 a listino, ma non c'entra niente, però cazzo da 160, da 180, 250, dai, lasciamo perdere, vabbè. Ma qual è quella col bicchiere, quello in vetro, quello sotto, col bicchiere in vetro? A me stai dicendo un'altra. No, non è a bicchiere, è come la Mantova, uguale, identica alla Mantova 1, c'ha la molla come la Mantova. No, non è quella, si chiama Super Lamy, io conoscevo la Super Lamy che è quella che ci aveva 8 radiali, in cui avevano fatto la Super Lamy che ne aveva 16, e praticamente c'era quel bicchiere trasparente in vetro, quella è un'ultima, come quella che c'ha Fabrizio, quella lì. Speriamo che sia buona, che funzioni, che vada bene. Vada bene, io adesso appena arriva ripiazzo la cosa, la Smart Tech, e ho già preparato i tubi, la porto a 8 metri a fianco alla Mantova, la Mantova è 6 metri, c'ha cioè 2 tubi da 3 metri, da 2 metri. E questa ne metto, anziché 3 ne metto 4 tubi zingati, quindi schiedo la 40 che ho, abbiamo già forati, abbiamo fatti tutti i telescopici con Roberto, da un capolavoro abbiamo fatto qua, un capolavoro, va bene, io mi legge con l'MC60 e ogni tanto fa i capricci, ho tutto smontato, aperto, pulito e ripiazzato, come mi ha detto Fabrizio, adesso sembra che stia funzionando bene. Ogni tanto non usciva in radio, toccava sollevarlo e spostare il tattino che c'è sotto, la rottura di palle, questi microfoni sono quando c'hanno gli anni sui, questo c'eravano 10 anni. Ogni tanto fanno i capricci, ma adesso gliele facciamo fare la modifica a Fabrizio, lo faccio eliminare l'interruttore e glielo faccio mettere diretto il circuito di amplificazione, almeno non rompe più la spalla. Le prendi qua. E beh, Chihuahua, un Claudio di Giamigian. Il rete di mio muro si è attaccato a me, ti vedo. Santiago Romba, Radio 5, avanti Gianni. Io ho sentito, pensavo al canale 10, ho risposto. Vabbè, comunque, avanti Eugenio, buonasera, dove sei? Non ti sente. No, si è sentito. Il canale 10, Claudio. Chihuahua, Santiago Romba sta arrivando. Ma Gianni non lo senti? Ehi, Non lo senti. Avanti, che la riprendi tu, dai. Ehi, dai. Riprendo un secondo. Mamma, attaccato hai già. Dove stai andando oggi? Ma stai rientrando? Ehi, io ti sento lo stesso, io non c'è problema. Io riprendi Gianni, pompa. Adesso ti inchiolo lo smitter qua. Adesso cambio radio, vado col 430 l'amplificatore, vediamo se mi ascolti. Sì, va buonasera a tutti. No, io sono entrato perché da là te che eravate insieme. Credo che non sta male, sicuramente eravate insieme a piazzare tutto. Sì. E invece tu stai arrivando. Boh, che ci fai sul 9.30? Non la spiego, dove sei? Sotto casa, tanto non scendo a aprirti, neanche se mi paghi. Sono in giro nel camper, già fa, me ne sto tornando a casa. Sì, ma lo dicevo a te, dicevo a Claudio, buonasera. Tu arrivi forte lo stesso. Però Claudio è 9.30, se spengo l'apparecchio rimane acceso, figurati. Ma Claudio si sa, Claudio è così, il suo segnale è così, anche con la radio spenta lui arriva sempre forte. Chihuahua, no, sto provando il Dacom, ho già fatto quello della Dacom 1000, quello che l'avevo preso già da qualche mese, però non l'avevo ancora usato, sto aspettando a montare la verticale, che ho ritirato proprio ieri, me l'ha portata Roberto con la furgonetta perché non ci stava in macchina, la verticale 5 bande della pick-up a volumpia, e quindi adesso ho ordinato il cavo, aspetto il cavo del miserabile cazzo, si era al metro nel volo, ho chiamato la maschera, preso al metro la Camille e dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma come lo spedivo lunedì, 50 metri, 5 per 3, 15, 150 metri, 150 euro di cavo, per esempio 50 euro d'antenna della pick up, 5 bande e siamo a posto, abbiamo fatto l'affare per Natale, poi questo vabbè, l'avevo preso già da un paio di mesi fa, non ti dico quanto l'ho pagato, sono anche in un raio, siamo quasi a una piotta, quasi 1000, ma ho lasciato 800, vabbè comunque, per mettere su la banda amatoriale. Va bene, allora il cambio per Claudio di Muros, avanti Muros, cambio. Sì, ciao Claudio di Muros, buonasera, me l'hai ascoltato, anche tu stai arrivando bene finalmente. E niente, poi c'era Eugenio che era nelle gallerie, vediamo se è arrivato proprio a Sassari o se sta andando verso altre parti. Eugenio, dove ti trovi? Adesso sono arrivato da Bricoman, da Picco, mi ascolti ancora? Beh, certo di sì. Poi, dunque, c'eri tu e chi c'era? Claudio. C'è uno che sta soffiando, chi è? Sono anch'io, Gianfra, buonasera. Buonasera, Gianfra. No, finalmente ti sei bello forte. Dove sei, Eugenio? Cosa hai detto? Ho detto che sono alla rotatoria di Bricoman. Passata adesso la rotatura di Bricoman. C'è un bel segnale qua, veramente buono. Ma che antenna stai usando? Quella che avevo sull'altro camper, l'ho allungata. Sono cazzate, l'antenna che avevo nell'altro camper, quella lunga, con l'impianto diciamo del camper suo. Va molto bene, va molto molto bene. Ottimo, sei quasi 9 con QSB, va bene. Avanti Gianni per saluti a Gianfranco. Ehi, io l'ho già salutato, ciao Gianfranco, buonasera. Sì, ciao Gianni, anche a te avevo risposto, ma forse non sono passato, buonasera, ben ascoltato. Per Claudio Torre, diciamo così, tu hai chiesto a me, io ho chiesto a te, ma sai qualcosa di che fine ha fatto, tutto finito, tutto piazzato? Niente male, Gino, amico mio, buonasera a tutti, Gino, amico mio, mi senti? Ecco! Amico mio, buonasera! Tutti a cianto, avanti anche. Appagappa, me l'ha dato un controllo? Perdonate, cioè c'è entrato una alla volta, c'è stato parlando Gianfranco, tutto in alto, avete cazzigato tutto, avete fatto un casino, vabbè, Gianfranco spostate al 20, Scusate. Confermo. Vai al 20, dai. No, c'è problema. Ma ho dato un controllo per cortesia che sto provando un nuovo abbinamento. Bene, su, forte e chiaro. Quanto sto arrivando? Bene, sempre il solito segnale. OG, mi senti? Certo che ti sento, buonasera. Ciao Giulio, buonasera. Antonio sono. Avanti Gianni. Ehi là, buonasera anche a te, ciao Luca. Vedo un casino, ciao Antonio, ben sentito. Antonio, come ti sto arrivando io? Questo smitter sei a fondo scala, sei. E ho messo l'antenna nuova perché me l'ha troncata il vento. Ma cosa hai messo? Come sono io di segnale? Nuova! Sono 2-3 prova radio? Sì, 9.25 si dà. Dico giù poco. E me tanto dormi tu hai. La moglie che dormi, Tommy, adesso devo andare a fare una cosa. E ci sentiamo dopo, cappa! E noi siamo fatti, ha fatto un salto da pochi minuti, da mezz'ora così. Prima siamo andati da trovare Virgilio, a Luraghia per Daniele, poi siamo andati da Locca, poi a Lumondu. Siamo stati una mezz'oretta circa, poi ci siamo andati a casa. La grappa, dai. Ok, dai, io ti devo lasciare che devo andare a fare una cosa. Ci sentiamo dopo, come ti arrivo lì, fondo scala? Sì, beh, sempre sul 3, sì, ciao, a dopo. Ciao. Gianni, sto chiudendo, aspetta. Avanti, Eugenio, dove sei? Sono, dai, al Marini, Alex Marini, al fine della discoteca. Ascolta, e che altro mi hai messo? La Super Lem. Come? Ho messo la Super Lem, che è come la Mantova 1 più o meno. È fatta molto bene. L'incastro che vanno in tubo è tutto in acciaio. Ho capito, oggi il vento ti ha troncato l'antenna. Me l'ha troncata in un'altra parte. Prima me l'ha troncata in una parte, l'ho rinforzata, detonata, non va bene e si è rotta all'altra. No, non è le fascette. Bisogna rispettare le misure, cosa che quando l'abbiamo piazzata, chi l'ha piazzata ha detto che non sapeva fare, quindi io l'ho lasciato fare, anche dovevo essere operato, non riuscivo manco a muovermi. E hanno sbagliato le misure, dai. Claudio è andato sul 20. C'è chiodo arrugginito da muro, salvati il chiodo. Vabbè, dai, io ci ho bel segnale con quelli a muro, se. Stavo usando praticamente un RM Italy. E già te credo. Vabbè, riprendi tu. Ehi, ciao Claudio Lauro, se mi ascolti, sì. Cappa. Anch'io ti ascolto, ma so che ti ascolto. Vabbè, io ho un antennino piccolo qua, Non sono a casa. Andrà bene. Mi sono fatto una passeggiata già, sono stanco. Mi sa che sto diventando anziano veramente. E dove sei andato di quello? Il solito giro che faccio. Mi avevo un cavallo, poi vado lì vicino a Sant'Orsola, Buddi, e poi rientriamo a casa. Un bel giro grandetto, una passeggiata con i cani. Ah, piedi, che la facciamo in macchina? Vabbè, già fa bene. Beh, in macchina non mi stancano. Vabbè, magari vai in macchina, poi vai in Piazza d'Italia, i giri, fai, capito? A volte si fa così. No. Se vado a te anche la faccio un giro. Se ti riuzza, no, lì al centro storico di Alghero. E ce n'è la gente? Abbasanza. Appagato. E pensavo che adesso non ci fosse più nessuno, che fosse morto Alghero. I posti di mare solitamente di mano sono morti. E invece Alghero va sempre. Eugenio, dove sei arrivato? Eugenio, ci sei? E deve essere che ha chiuso. Riprendi Muros. È già risolvibile, no? Non è una cosa, ho operato anche mio suocero ed il calcolo della cistifella. Quando ce l'aveva piangeva come un bambino dai dolori che aveva, poi quando se li ha tolti ha detto che era rinato. No, già, già, già, già. È un'operazione di routine, non è un'operazione grave. Non ve la prendete così perché se ne è peggio. È meglio non abbattersi e andare avanti. È certo che non è una cosa piacevole, però... Sì, sono quattro pugnalati, scusami, e voi come stanno fatti a me? Poi vabbè, dai, speriamo che si risolva tutto per il meglio. Mi è sembrata la voce natalino, avanti la... Ho detto che mi hanno tirato quattro pugnalate a me. E buh, non è che ti possiamo inondare di... Ma parla con lontano al microfono, stai natalino. Natalino era, già. Ma sta parlando con lontano al microfono, perché non sta uscendo tanto forte di radio. E adesso bene sto scendo. In cosa il microfono in frigo? Ah va, adesso chi scendi? Avassi. Avassi. A giudizio mi ha ricutto quattro pugnalati che andavano a operare dalla gestifelle a me e basta, no? Ma già ne faccio niente, no? Guarda, adesso ce lo piangeva come un bambino dai dolori. Già lo so io, non dirlo a me, ce l'avevo io, quindi lo so. Quando è andata la nipote, ha detto come stai, zia? E non lo vedi come sto, era incazzato lei. E ero grido. E lui poi era suscettibile. Quando lo toccavi, quelle cose che non volevo, io non ci metteva due volte. E quella gliel'ha chiesto come complimento, gli ha detto come stai, zia? E non lo vedi come sto, sono con le lacrime agli occhi dei dolori. Poverino, già, me lo posso immaginare, che ero grido che era nervoso. Sono cose, uno l'aveva fatto di calcolo, sono riusciti a farglielo fare con l'urina, però gli altri erano grossi, non ce la facevano. E a me me l'hanno proprio tolta la cicifelle, non ce l'ha niente a fare. Ma era quello che ti ha fatto dimagrire. No, ho avuto la pancreatite io, se ne sono accorti dall'attacco e dalla risonanza che avevo quella roba lì. Ma sai qualcosa che non so? Infatti le ho fatte dopo, ho fatto l'operazione alla cicifelle e poi quella del lì, mi ha aiutato a operare, ma quello più tranquillo. Vabbè, meglio raccontarlo Natalia Futibì. Pensate che sia passato all'operazione. Avanti a chi tocca, Luca, tu, che tocca a te. Sì, andiamo e andiamo. Sì, già, comunque Alghero è un po' così, dai, non è male, non è male, dai. Mi concoso con un bombolino al ramo. Infatti faccio un giro, una basiggiata, per vedere un po' la situation. Anzi, però sono andato ad accompagnarlo per fare una commissione, dai. Già lo so, già lo so. Devo andare a prendersi, già lo so che doveva prendere. Già lo so. Che bella, che bella, che bella. E ho proprio vecchio, cazzo, mi sento vecchio, no, non è possibile. Ascolta, tu, quel locale che si chiama L'Incontro, ma è stato ci sei lui? Quel locale? Che si chiama L'Incontro. No, no, no. Non prenda niente. L'Incontro? No, non si chiama L'Incontro. Come si chiama Marima? Il ritrovo. Il ritrovo, vabbè, quello che c'è praticamente, cosa ti posso dire, salendo dove c'è, cosa che altro trasporti ci sono lì, non me lo ricordo, vabbè, comunque c'è qualche corriere lì con la zona. Sì, invece SDA, la zona lì, la Sassarese, ma l'agricola Sassarese, sì, si chiama così, ma non mi viene il nome, ma come si chiama Mario? Territrofo. Territrofo, vabbè. Perché ci canta un amico mio, ogni tanto mi manda inviti, ma non mi so come è andato perché Elena non sai che fa la notte, quindi non ci posso andare. Eia, ce l'ho ieri, una mezz'oretta. E Alberto, cantato? Non l'ho visto, non c'era. No. Ci sarà stato Medis, là. Massimo Medis? No, neanche. Perché solito fanno loro due insieme e poi c'è il karaoke, oppure il canta uno, oppure il canta l'altro. Chiappa. Sì. Sì, sì, sì. Pieno era, poi già, sai cos'è il discorso? Che per via del Covid è un casino, è un casino, dopo pieno, come se niente fosse, capisci a me? Mi hanno dato un medico molto l'invito, mi ha detto vieni a vederlo e cantando, io già lo so come canta, perché facevano le canzoni dei nomadi, io prima avevo il complesso Alberto. Comunque c'è da avere paura veramente, perché la gente se ne frega le palle, si ubriaca, ne ha putinuta, capito già. E vabbè, avanti muro, se riprendi. Ehi, dai, ciao, chiodo, dai, buona papata, non mangiare troppo, se lo ingrassi poi. Capo, avanti la tarina. Ehi, dai, sto in ascolto che sto guardando roba al computer. Ehi, Luca. Comunque la tarina le volevo dire, quel PC ha ripreso a funzionare, quel famoso PC ti ho mandato la foto. Se fosse male ha toccato qualcosa io, magari lui l'ha smontato, ha toccato le RAM, era messa male, non lo so, non avviava un errore, ecco. Comunque ha ripreso a funzionare tranquillamente. Infatti io gli ho detto portalo al tecnico, quello è un PC che cioè non. Come fai? Io non ce l'avrei messo mani dentro, ce l'ha messo lui. C'è un PC da 3500 euro, di quelli fissi, quelli gaming. Capito già? Ehi, allora pensavo se si scende l'attavino. Se non sei in grado di farlo è meglio che non lo tocchi. Se non per basta arrivi, no? Non è che ti puoi mettere a toccare roba che poi magari non sei dove metterci le mani. È giusto che sia così. No, non è il fatto di non metterci le mani, a parte che tutto in inglese, un casino, tutto in inglese. E vabbè, alla fine sono. C'è un PC a raffreddamento a liquido, non è come la classica ventola, bello. Tu devi vedere, tu qua ti mando le foto, aspetta. Come raffreddamento a liquido? Già va, un radiatore. E per forza, anche dal video c'è un radiatore, sì sì, anche la. Non c'è il processore, ci sono delle pompette, raffreddamento a liquido, raffreddato a liquido. Non ci credo. E non è pericoloso con l'elettricità. No, no, no, che fatto a posto. Ma cos'è da tanti anni vi so? Ti mando le foto. Ecco che ti stavi afferrando. Chi è che ti è sopra popolare? Non passava né uno né l'altro. Ho detto che ci sono da tanti anni così i computer raffreddati a liquido. Io lo riconoscevo, sarò ignorante, però lo riconoscevo, Natalia. Siamo di Liglia. Io conoscevo solo quelli con la vetta. Neanche Luca ne aveva mai visto che hanno l'hard disk integrato nella scheda. È una schedina, praticamente si mette dentro la schedina, ed è un SSD praticamente, solo che invece di essere esterno è integrato nella scheda madre. Ma chi se non la ciappava? Io gliel'ho detto. Chiamate, ho mandato le foto. È tutto là, se tu guardi bene, quello centrale, no? Allora, quelle verticali sono le RAM, 4 RAM di cui da 8 giga l'una, 32 giga di RAM, poi un disco da 1 terabyte, processore i9, quasi 4.000 euro l'ha pagato. Ma perché era per giocare quel computer? Capito? Una bestia, è pesante anche Minatali, non è come il classico computer, quello che ti avevo dato a te, pesante, poi c'ha il pannello, cioè lo sportello in vetro. E per vedersi tutte le luci che si accendono lì, capito, vai, è fatto apposta, c'hanno quelle finestre proprio per quello, per vedersi tutto illuminato. Le pettole ce le ha lo stesso. Come, già? Le pettole ce le ha lo stesso. Sì, quelle sono le ventole per dissipare l'aria, non c'è la ventola nel processore, capito? E poi tramite quella ventola lì va a collegare la scheda video, la scheda video GeForce. C'ha praticamente i tubicini come il motore del frigo, come? Ma quelle ventole servono per raffreddare l'acqua pure, perché va in circolo per raffreddare il processore quell'acqua, capito? È collegata al processore. Allora tu conta già 5 volte del computer, quello ci vogliamo per forza già. E beh, per farlo arieggiare, perché è chiuso, capito? E più ha 3 ventole e la scheda video. Quella scheda video mio costa boh, tipo 1000 euro. E invece le vale di là, che l'hai buffarato. Boh, magari di Naggia, non lo so. Comunque è un bel PC. Per metterci mano lì, no, io ci vuole un tecnico, uno bravo, bravo. Capito? Io già mi arrangio, ma ci vuole uno bravo, bravo, bravo, uno vuole le palle sotto. Beh, ma sei tecnico, tu ti arrangi e basta. Beh, nel mio piccolo io ho riparato il computer, che il tecnico non c'è riuscito. Guarda, dico una cosa, me ne hanno regalato uno, me lo sono sistemato. Così per pezzi mi, me l'ho arrangiato, cioè funziona benissimo, io me lo sono sistema operativo ed è un buon po'. Non mettere le mani già, capito? Se tu mi dai un computer tu che tu sai che magari ha un problema, io quel problema lì so dove andare, ecco. Poi se ha un problema proprio elettronico, allora un po' lì ci vengono dei dubbi. Però io ti parlo un esempio, problema di scheda video, ecco, per dirtene una. E se dove andare, cosa fare? Diciamo, se un tecnico è bravo, non ha limiti perché ha studiato per quelle cose lì. Tu hai dei limiti, magari riesci a fare certe cose, ma è giusto che sia così, dove non riesci, che lo... No, intanto non riesci a schiacciare bene il microfono. Guarda, ti dico una cosa, se il tecnico tu te lo porti, se ha un problema, ti dice che il PC da buttare, capito? Il PC da buttare ti fa pagare comunque perché te l'ha controllato. Lo so, 10 euro. So qualcosa anch'io. No, 15 euro, e qui c'è 20 euro. Come si dice? Ah, io grazie a Dio già non ne porto. Poi già, attenzione, se io ho un problema magari che non riesco a risolvere, posso chiedere, non è che sto dicendo chissà, cioè non lo so con nessuno, nel senso che se ho un problema che magari uno è più bravo di me, chiedo cos'è questo, perché fa così, come sono stato aiutato qua, attenzione, non è che... Ci sono tante cose, vabbè, là, delle piccolette che magari io non so, però piano piano col tempo già si scopre tutto. Là, avanti Natali, dai, io me la sento già, vado a farmi una doccia, arrivo subito. Io vai, tranquillo, avanti Natali, canale 10, c'è qualcuno. Perché sorriso? Avevo i cupidi indicato, lo so che siete tutti lì, aiù. Niente, al 16%. Aiù, i cupidi. Facciamo scaldire il tutto, forza, scalda, cambio, scalda un po', cambio, scalda. Scalda, cambia. Ehi, Pomponius, che mi dici? Allora, non ti dici. Aspetta che sto per avvisare, sono 7 metri da mezz'ora. Cosa stai usando, sempre quella fare là? Il tuo, aspetta. Adesso l'ho trovato per comando. Andate. Ascoltami, ti volevo chiedere una cosa. Si può mettere un microfono che ha 4 poli in un baracchino che ne ha 6 di poli? Che baracchino è? Il Midland Plus, quello che ho messo in camper. Ha 6 poli, perché si può cambiare il canale dal microfono. Voglio mettere il microfono amplificato, però il Proxer 1000, però ha 4 fili il Proxer. E beh, dove sono mette il problema? Devo in pratica agganciare i cavetti, a casa prima della puntata alla ricezione, dopodiché manca l'audio apposta, poi i due spiloti che rimangono in più, quelli non li collego e si è a posto. Quindi è possibile, sì. Certo che è possibile. Qualsiasi apparecchio che ha 6, a 8, quello che è come il chemo, per dire. Si può agganciare qualsiasi microfono. Ok, allora non c'è problema. Quando ho sempre trasmontato me lo fai, naturalmente pagando. E vabbè, sali qua col baracchino e faccio le commutazioni, non ci vuole molto. Nemmeno se ti sei più tranquillato lo spinotto a 6. Questo è 8. Via, lo prendo lo spinotto a 6. Ce l'avevo con la porta. Se prendo lo spinotto a 6, vabbè a 6 no. Quindi te lo prendo così sei tranquillo. Quando vieni qui ti collego il come si chiama. Cioè, ti metto il microfono per peccato. Ma come mi ascolti, gli ho mettato l'LC a quello che mi ha dato tu di apparato. Sto scendo con Salerno. Purtroppo io ti ascolto sempre divinamente. Proprio quel microfono si abbina tantissimo a quell'apparato. Bellissimo, io ti ascolto divinamente, di lusso. Salta sì, si è adatta con questo. È sempre uscito la bestia con Salta. Va bene anche col Kimbud, Basta fargli i collegamenti, va benissimo col Kimbud, anzi va bene l'Ecomaster Plus del Kimbud, andrebbe bene. E anche l'altro Salta. Per fargli anche l'alimentazione direttamente tramite l'apparecchio addirittura, perché il Salerno ha 6 cavi, quindi può utilizzare il cavo che c'è in più per alimentarti direttamente dalle borse del Kenwood, anzi 8 sono nuovi, ma sono 8 borse, ti alimenta direttamente il microfono Salerno. Così non stai a usare batterie e niente, come facevo io. Ok, hai ascoltato veramente bene. Te l'avevo detto anche la volta scorsa che ti ascoltavo bello amplificato, proprio la tua voce perfetta, bella forte la modulazione. Ma perché era chiusa la modulazione, così mi hai detto. Ciao Anto, era l'LC, ce l'aveva a metà, ce l'ho ventato e ho visto già esce bene adesso, è perfetto, già è amplificato. L'unico apparecchio che non puoi toccare in un tubo è il coso, l'alettone, quello che va in 10 metri anche. Quello c'ha solo la modulazione M che puoi aumentare e basta, LC non esiste, ce l'ha evidentemente già programmabile dalla tastiera. L'ho controllato stasera, c'è la potenza è amaretta del power, quindi figurati. Infatti non ho aggiunto caduta, stavo cercando le decima, non c'è solamente AM modulazione e basta, quindi è la manetta, esatto, cosa tocca fare, lo devo modificare, ma invece me la da male, lascio così come è nata la fabbrica, che è tutta microprocessori, se sgarri poco a poco lì sei trombato forte. Buonasera Antoine, ben sentito. Buonasera, già ti arrecui sul gatto di apparecchio domani, non ti preoccupare. Che ciò che c'è capito di mettere un babba? Cosa? Perché sto parlando come il papa? La papa. Ecco l'effetto ecco, sta dicendo come il papa. Sei abituato a sentirti con l'altro. Ce l'ho nell'apparecchio, ce l'ho. Bene arriva a Porto Torres. Sento il tuo segnale, sette, non c'è problema. Ti stavo dicendo Pompù, infatti non li hai toccati col baracchino. No, io la tevo la manetta, già da prima. Capito? È stato già aumentato già da prima, infatti l'ho aperto e gli hanno fatto la modifica dell'alimentatore. evidentemente era l'alimentatore che c'era prima o danzava oppure si è bruciato, e adesso un alimentatore di questi spucci di cilindri dentro. Ci hanno infilato, gli hanno fatto i collegamenti, hanno fatto un bel lavoretto. Non c'è il vento, ecco perché manca il dissipatore dietro, e quindi non ha bisogno di solo vento, poi non scalda un accidente nemmeno. Non aveva il suo nome, questo non lo so, perché io l'ho preso, l'ho messo qua e ci muovo, basta. Poi vabbè, un paio di giorni dopo ho preso il Kingwood e stavo usando sempre questo usato, quello non l'ho proprio usato. Però mi usciva bene a quanto mi diceva, poi lo sento dati e figurati. Perfetto, quella parte è perfetto. Io lo so, ci posso piazzare anche lineare posso metterci la scheda lineare da 100 watt e ci hanno mettato da 30 ampere, figurati, c'era che devi porci dentro, ma se rinfido la scheda, mi compro la scheda dalla LEM, mi piazzo il finale e piloto tranquillamente con 3-4 watt dell'apparecchio stesso, ma se mi scusi il trimmer, piloto il tassisto a 80 a 100 watt ed esce uguale come sta uscendo adesso. Poi l'unica cosa che devo mettere è la ventolina per lineare e basta, per la scheda. Avanti, Antoine. Gappa, come ti arrivo da quelle parti, Antone? Fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. 9, 10. Così poco. Questo smette così. Devo registrarlo, infatti l'apparecchio è... Devo... Sto aspettando che se l'interrompetto colato me lo registro... Perché due arrivano 9.30 qua, capito? Me lo registro giusto, tu sarai 9.10, cioè 9.15 o 9.20 mi sembra arrivavi con l'altro. L'altro apparecchio. L'eco, non l'hai aggiustato ancora. L'eco, lo devo trovare un po' come? Poi lo sto dicendo. L'eco, ti ho passo contatto. In pratica quando io inserisco il coso c'è lo scatto, c'è, si sente, capito? Con le cuffie si sente dell'alimentazione, accendi e spegni. Ci ho messo il dittino dove c'è la scheda e ho visto già esce basso basso, ma già esce, quindi c'è un falso contatto nella scheda, e devo staccare la scheda e cercare quel componente che non stava funzionando e cambiarglielo e basta, e poi funziona, ma non me frega niente per adesso dell'eco. Se vuole ci mette un DM1000, ma esce molto meglio di DM1000 che quell'eco suo, e poi non è l'eco ma un reverbero più che altro, per farlo eco bisogna fare come mi ha dato il saprone Antonio Bombolo, che avevo aperto, ci ho messo un trimmer, l'avevo regolato e facevo avevo fatto la regolazione esterna, infatti mi faceva l'eco più lento o più veloce, dipende da come volevo io. Evidentemente l'eco non è stato usato e si è impallato qualche componente, ti ripeteranno di un radioamatore quell'apparato. Io non è che, ti ripeto, non è che sono uno che sta a metterci le mani, perché non è il mio campo e prima di fare danno ci penso due volte. Quando bucio torna, quanto arrivi a te con quello smittare? Quanto torna se arriva, fa un passaggio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e io lì arrivo basso. 7. Sicuramente ha qualche cosa, oggi è salito di brutto. La mappa di Nipa, ma perché? Gare Ghiccio. Che Ciao Antonio, buonasera, buonasera anche Eugenio, sempre provando state. Buonasera, buonasera, buon DM. Sì, buonasera, Boborino, Boborino. Buonasera, buonasera, e chi è entrato? California, Luca. Ebbene, allora, rotturato c'è il bombolì. Stavo facendomi la barba. Tagliandomi un po' i capelli che c'ho troppo lunghi. Ah, mi sono voluto dire che dai ciucca il gatto. E che è che ciucca il gatto? Che forse ci vuole te? Ciao Franco Carifuoni. Ciao Eugenio, buonasera, ciao anche a Luca. Attenzione, Franco Carifuoni a vita mia ci mi ascolti qua a capa. Uno importante. Dopo un importante. Oh, detto, cane che su gaffigato. Oh, sta Costantino. Beh. Lì ieri. No. Cazzo. Per l'asilo oggi, vabbè. Ah, è vero. Allora, amico mio di Porto Torres. Ciao Luca, l'amico mio di Sassa. E te, come te? Tutto a posto? Tutto a posto, vedete l'ordine, amico mio. Avanti, va poco. Allora. Tutto a posto, niente l'ordine, diceva quello. Mamma, e allora Garifu, che si dice? Cioè oggi, è che si dice? È sempre la stessa cosa. Cos'hai combinato oggi fra? A Tonzo? Oggi sono stanco, sto facendo cose in campagna. Ah, oggi in campagna, cazzo, vuoi vedere qui, mamma mia, già basta ieri, cazzo, ci trovo Giampiero. Cazzo, mi sono cacarate dalla... Il petto, cazzo. Perché ero insieme a lui bevendo una birra al fornito della cui cazzo, la più ghiacciata la birra che il freddo che c'era fuori. E quanti gradi c'erano? 5 gradi? Sì, 3 gradi c'erano alle 8 e mezzo alle 9 ieri mattina, ce ne sono fatti 5 o 6 alle 10, forse 7. So che lì alla Kuwait, hai capito? E non ci batte il sole, hai capito? Quindi, cazzo, c'è un fuoco addosso.